avanti si chiama su canale 10. Avanti si chiama su canale 10. Lascialo dormire Giuseppe. Ehi, ce la sul Raggedi. Ah, prendere quella roba. Telefono. E passa lo stesso. Già sarà a casa, magari c'ha la radio spenta, è fuori nel giardino. Passa lo stesso. Solo il campanello già c'è. Eia, ascolta, quella roba là è arrivata? Vabbè, a volte non calcolano magari. Anch'io quando ho spedito la radio su, era calcolato in 3 giorni, invece poi ce ne ha messo 4. Quindi, ora c'è che arrivi domani. Guarda, se non arriva domani allora solleciti, ma aspetta sino a domani. Ehi, vabbè. Comunque, di solito capita così, che magari non ce l'hanno fatta a spedire il venerdì, sabato e domenica no, capito? Non viaggiano e quindi dovrebbe arrivare o domani o mercoledì mattina, capito? Quindi vedi un po', o domani o mercoledì, comunque. Va bene così, d'accordo, dai, io sono qua al computer, ti ho risposto e ti ho sentito, mi stai dicendo che è tutto sotto controllo, che tutto sta procedendo, già va bene così. Ehi, allora va bene, dai, ci aggiorniamo allora, dai, se hai novità mandami qualche messaggio, va bene? D'accordo, ciao, alla prossima. Ti becchi. Sì, chi è? Sì, ciao Gabi, buonasera. Come sì? Ehi, ehi, stai arrivando. Non ti ho sentito prima perché ci vuole Dio che arriva più forte d'Alghero. Tu sei 7, Santiago 7. Ehi, arrivi. Alla grande Gabi. Sei 7 abbondante con 5 watt, vai più che bene. Alla grande, no, la radio è perfetta, Gabi, il segnale è più di 7. L'ultimo. Lascia stare tutti così, tanto, per quello che c'è, per quello che è rimasto qua. A volte non senti un cane, non ce n'è più nessuno, Gabi, c'è più nessuno. A volte entriamo così la sera in 2, 3, giusto a fare 2 chiacchiere, ma non c'è rimasto più nessuno, capito? Quindi io comincio sempre questa, ma anche questa è in partenza, io ne ho dato tantissime di radio proprio perché non me ne faccio più niente. Tutto via, fuori, tanto, mi bene una e basta, e ne avanza, ne avanza parecchio con una. La vita giusto in avanza, proprio alla grande, non c'è nessuno, siamo rimasti in pochi, poi da lì tu arrivi molto bene, arrivi bene a me, quindi c'è Gianni, alla Teroce, lì arrivi benissimo, Giulia lì punti, quindi li senti tutti quelli che parlano qua, ma va più che bene. Più che bene. Per il resto come procede? Tutto ok? Ehi, fritti giù, diciamo. Io non so più da che parte girarmi. Solo spese e niente entrate. Sono andato in pensione nel 2017, a fine anno, a novembre. E ti dico che non so da che parte girarmi, né di mattina né di sera, che non so più cosa va. E ti ribadisco, solo uscite, niente entrate, proprio a tasso zero. Quello è un grande sacrificio, Gabi. Grande sacrificio. Quel lavoro lì è un grande sacrificio. Forse è fatto anche bene. Ti fai le tue ore, io l'ho fatto, non avevo il conto terzi, però l'ho fatto. Quel lavoro prima di entrare dove me ne sono andato in pensione. Io ho quasi 60 anni, ho lavorato per 42 anni, quindi basta. Già sono arrivato e già ho dato. Tu sei ancora giovane, già vi la vai brutto, piano piano già si arriva a tutti. E dove si è appoggiato? Qua a Sassari come carico? Già va bene, questo va bene. Ho fatto anche io quando lì a Porto Torres avevano chiuso il stabilimento. Avevo inventato quel lavoro e mi dava da mangiare e poi avevo fatto il concorso dove sono entrato, però è una buona una buona iniziativa, già sei spalle largo, forse a gennaio sei giovane, capì, e ti accampa, hai meno problemi, meno impegni e meno tutto, fai le tue ore di tuo lavoro e dopodiché parcheggi e se ne riparla il lunedì, capito? Di da maniera, e sempre mazzane sera, sempre attaccato al bar. È un grande lavoraccio quello. Lo fa mia figlia, Gavì, lo so, i sacrifici che fa. Una linea arriva a mezzanotte, a l'una. È un grande lavoro quello. No, Gavì, è una saguba, lascia perdere. Hai fatto bene, sono contentissimo. Anche perché l'ultimo periodo eri abbastanza stressato. E comunque va bene così. Quando si cambia e si capisce che già l'umore cambia, già il comportamento cambia, vuol dire che ci doveva essere questa svolta, Gavì. Sono contentissimo. Mi fa piacere. A supportare niente, io ho un bel idee. Non ci riesco, non è un lavoro che io riesco a fare quello, capito? Proprio l'unica cosa che non riuscirò mai a fare è sopportare dietro il banco le persone, perché è un lavoro molto delicato, chi lo fa deve avere un coraggio e soprattutto un carattere molto molto forte, calmo, pacato, ma chi è così sempre un po' agitato come te, ma anche io sono così, no, non è un lavoro che si può fare nel modo più assoluto, meglio così, sono contento. Gappa. Quindi l'antenna è sempre quella, praticamente abiti vicino a Benito, tu no? Dove sei? Cazzo, pensavo che eri dentro casa, con l'antenna grande, e per essere nel furgone è ottimo impianto, Santiago 7 abbondante, radio è 5 è perfetta, Gavì, no, ma si vede perché la modulazione è perfetta, Gavì, è perfetta proprio, senza nessun rumore, arrivi benissimo, alla grande. E vabbè, tu queste cose già le mastichi, già te le hai sempre fatte, e quindi già andava ottimo per la truppa. Ma qua c'è il camioncino, oppure furgone cassonato, che già va bene, quello va bene anche per fare collettame, così è. Ah, e tu stai facendo, fai anche quella, come si chiama, la roba, dai, per musica, mi capito? E andare, tutto io bevuto a vigilia di naga, vi. Tutto fa brodo, c'è quello, no? A incrementare, a fare, già è ultimo per la truppa, va bene, quello come hobby, per fine settimana ti rilassa buru. Sì, e piazzate tutto il sistema audio, dai. No, Gavì, non c'è rimasto più nessuno, è registrato il break. Sono rimasto io, Natalino, qua sul 10, Gianni Doppio Rumo, che anche lui è incasinato col lavoro, quindi entra poco. Poi Marcolino Condo, basta, non c'è più nessuno, cioè 4, 5. Poi sul 23 chiacchierano quelli della Teloce, che sono 2-3 anche loro, tra di loro, così, persone grandi, basta, Gavì, non c'è rimasto più niente. Oggi investire in radio vuol dire buttare via i soldi, non c'è rimasto più niente. Gavì, alla grande, è proprio, mi hai tolto le parole da bocca, è come il primo giorno che ti ho sentito che stavi salendo a Sassari da Porottolo, c'è con quel baracchino nell'Alfa. Uguale, stessa modulazione, bellissima, vai alla grande, ti ripeto, viaggiando hai fatto la cosa più giusta, perché il baracchino quando viaggi ti fa compagnia e tutto, e va bene. Però per la sera, quando vuoi fare due chiacchiere, io ho sentito Valerio, stavo rispondendo a Valerio, se no io è difficile questo l'accento. Entro giusto verso le 7, così, dalle 7 alle 7 e mezza, 8 meno un quarto a fare due chiacchiere, poi metti su Rugani, boh, spengo tutto e non ne accendo più, Gavì, capito? Aspetta a vedere che mi pare è uscito un break, forse D'Alghero, vediamo chi è. No, no, non c'è niente. Capito, capito. Tutto lì, però hai fatto bene a metterlo così ti fai due chiacchiere la sera. No, non sono tempi, no, te l'ho detto, non sono tempi. Mia figlia ha sempre questa stessa intenzione di mettersi in propria, però è così, non sono periodi, tempi e soprattutto non c'è più quello che c'era quando eravamo ragazzi noi, hai compreso? I casdiami ori la fa di rubare, ai circoli, va. Soldi non ce n'è, capì? Non ce n'è, è un disastro totale, buh. Quella è meglio non toccarla, quel tasto è meglio non toccarlo, capì? Perché non c'è mai stato uno che ha dato un incentivo ad un giovane per ampliare, per fare, per crescere, no. Invece di farlo crescere ne dagli anni ranchi, e questa è proprio la burocrazia che hai detto tu. Ma infatti già ci sono delle cose che praticamente costano meno, nel senso proprio della burocrazia per quanto riguarda un circolo ricreativo. Con il bar fai prendendole in una mano e mettendole nell'altra per pagare le tasse, altro non c'è, perché non c'è niente. Forse è stato solo quello, forse è stato solo quello il problema, capì? Ma ve ne sono tanti. Qualsiasi cosa fai, capito? Perché tu mi insegni che anche se prendi una qualsiasi attività, se vuoi far star bene la gente, un pezzaretto di marciapiede l'hai di bigliar, una denda l'hai di munì e devi bagare, la denda, devi bagare un marciapiede, devi bagare tutto. O la gente la lasci nella porta e le dici, mi non uscite fuori del marciapiede perché si paga, capito? E quale sistema è di lavoro questo? Quale sistema è di lavoro? Alla governanda in campagna, fra un capannoni e portate da ieri due tanchivi, usci fermo. Sì, il comune di Bortondoro aveva controllato chi si ladra, chi fece, invece controlla a te, viene fatto meglio. E quello è grazie alle ordinanze del sindaco, perché il comando dei vigili urbani si muove in base alle ordinanze del sindaco, capito? Quindi evidentemente c'era anche un po' di gelosia, perché se tu lavoravi magari, stavi menino, andavi avanti, tiravi avanti la baracca, e magari qualcuno lavorava e dice, ma scusa un attimo, anda a controllare chi c'è, vuoi un bediglietto e diventa lo circolo senza destra, capito? C'è anche la burocrazia, ma soprattutto anche la gelosia in quel sistema di lavoro, capì? Sì, perfettamente. E beh, dietro lì all'angolo c'è il tabacchino, quindi mamma abitava lì. Conzi, quella gente non vale niente, capì? Quella è solo gelosia, perché magari a Porotosi non c'era neanche uno a quei livelli e quindi dovevano tenere sotto controllo, un peso è. Quella è solo gelosia, capì? Per me è solo gelosia. No, non lo sapevo, grandissimo quel locale e lo conosco perché c'avevo la ferramenta congiato, quindi di fronte a Mancinelli, no, praticamente, in Chivi, in via Tre Sacchi, di vera Mancinelli, finalmente, proprio di fronte. Quindi bellissimo locale, è un vero peccato. Se hai rivenduto e mi hai tolto fuori le spese e ti sei organizzato diversamente, va alla grande, capì? Va alla grande. Speriamo che non ci abbia rimesso, perché se ci hai rimesso è una grande rottura di balle, sempre per la burocrazia. Stavo parlando, hai chiuso e ma capì? Lì ci vuole l'autocontrollo, perché lì rischi grosso, capito? Qui sono pubblici ufficiali, però quando ti fanno salire nervoso così è chiaro che poi non guardi in faccia niente, parti in quarta e rischi di metterti nei guai, e quindi hai fatto bene a darlo, se ti hai recuperato i tuoi soldi, se la biglia è luce. Vita nuova, aria nuova e giro nuovo. Vediamo chi è D'Alghero, chi è? Cosa sei? Da casa di Giuseppe sei? Magari Giuseppe avesse questa voce, vale? Magari. Sei Santiago Nova, Radio 5, lui deve sollevare il volume per sentirlo quando parla. Non avevo mai sentito nessuno parlare da lì. esci molto bene. No, sto parlando con Gavino Joker da Porto Torres, ma è con la radio in macchina, quindi non lo senti, vale, capito? Per quello che ho risposto subito, se no vi saranno rilevati a vicenda perché avete più o meno lo stesso segnale. Ciao Vale, ciao, alle prossime. Capito, Gavì, hai fatto bene. Chi l'ha preso? Gente di Porto Torres lo stesso? Ma Marco o Giorgio? Mario, e il fratello, quindi, il fratello di Francesconi, di zio Annibale, dai, era mio zio. Il fratello, quello che cos'era? Allenava il Porto Torres, cos'era? Ah, ho capito. Sì, già va bene. Tu avrai a vedere, forma di verme, quello che ti sta dicendo Claudio. Tu avrai a vedere, guida Eddor, i vigili non vanno andare mai. Hai capito il perché? Fai uno più uno e rusai, capi? Hai compreso? Ed, tranquillo che non vanno a nessuno, perché si chiama Francesconi di cognome, hai capito? Non ci va nessuno, meglio così, capi? Ma manco ti rilassi, sei libero, puoi uscire, fare il sabato e la domenica, no, si lavora, e quando lavori è un'altra gubba, non hai a che fare con chi lavora cotta e chi lavora cruda. E mi fa piacere quando sarei a Sassari che ci vediamo e ci prendiamo un caffè assieme, visto che siamo lasciati in una maniera un po' stronza, capito? Un po' così, vabbè, a tutti i dirgli, quando sei a Sassari chiamami e ci vediamo un caffè, Gavì, che mi fa piacere. E allora già ci vediamo con calma, ci facciamo due chiacchiere. Fa piacere che hai fatto questo dito basso, perché ti vedevo un po' troppo stressato, soprattutto l'ultimo periodo, quando forse hai avuto quel coso, appunto, che ti hanno riscontrato, non stavi bene, eri molto stressato, molto nervoso, capì? E quello non fa bene, non fa assolutamente bene, perché tipo sì, io mi sono andato 2 anni prima dal lavoro proprio per lo stress e perché non stavo più bene, non ce la facevo più né a sopportare il mio lavoro né a sopportare i colleghi, e quindi ho detto mi mancano 2 anni, ho chiesto l'anticipo del prepensionamento, me ne sono andato, perché altrimenti non lo so. E la stessa cosa ti dico, io partivo da casa tranquillo, con la voglia di farmi le mie ore, poi arrivavo al lavoro e iniziavano i problemi, no, quello no, vai dal di là, no, aspetta, c'è un programma, vai là, Ravini, lo sopporto oggi, sopporto domani, cioè non ve la vasio più, vai. Poi sembra che c'ero solo io, capito? E i sabati e le domeniche, e i giorni di festa, ma ho fatto Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, primo dell'anno, sempre travagliente. E l'altri, tutti in ferie, così, vabbè. Alla fine ho deciso anch'io, Gavì, di andarmene, ma non ce la facevo più a stare 6 ore e 40 in macchina, girando a destra e a sinistra, tappando il culo agli altri, che non hanno mai avuto voglia di fare niente, mai. Ma so più niente, capito? Mi avevano già proposto, 2 mesi dopo mi hanno proposto se volevo rientrare, argomenti, vai, fate un blu, vai, mi vedi, rubinoccolo due a me, arrangiati, giusto, perché come dici tu, quando poi non sei più portato e non hai più voglia di sopportare la gente, alla fine vai a lavorare di malavoglia. Hai fatto bene, ho detto, hai fatto benissimo, perché non è tanto quel giro che ho conosciuto io, perché io scendevo qualche volta la domenica o sabato, eccetera, però è tutto l'insieme delle cose che poi ti porta a mollare, Gavì, capito? È tutto l'insieme delle cose, non è solo quello lì, è tutto l'insieme delle cose. Francesco, cosa dici? Bene sta. No, ma non glielo puoi togliere, Gavì. Toglitelo dalla testa. Che Francesco, quando va in pensione, mi dice, gli dice, va in pensione e una campagna. Lui non lo sposti al mare, non c'è niente. È nato in mare, Gavì. È nato in mare lui, non lo sposti. Si prenderà un gusto, a tempo buono, va e continua a fare quello, perché per lui la realtà è quella, non c'è niente da fare, non lo sposterai mai. Sì, lui può andare, già da adesso può andare se vuole, dire a informarsi, perché hanno varato la legge del lavoro usurante come suo, e per i pescatori mi sembra ci siano 2 anni prima, possono andare, capito? Possono andare, dire di informarsi, così si rivara dalla vacca manna, si rilascia un po' gareddo e poi vuol dire si prenderà la barchetta per i fatti suoi, esce quando ribiasi e fa chi sono ribiasi, metti gioco vendio. Gavi, non credere, no? Anche io pensavo così. Pensiamo così, salta pensione con la contributiva con 100 euro in meno dallo stipendio, quindi non è cuscino, deve informarsi bene. Se vuole salire a Sassari mi chiami, lo accompagno io al patronato dove sono andato io, e fanno tutti i calcoli, tutti i conti, non ci dovrebbe rientrare, perché con 2 anni di lavoro usurante che ti dà l'INPS, penso che ci sia anche un'altra agevolazione, quindi bisogna informarsi bene, capito? Miglio, lo ti raggiungo io quando vuoi, mi telefoni e lo accompagno io al patronato a Sassari a vedere come te, perché se lui ha i contributi, anche se sono bassi, aggiornano la contribuzione del lavoro usurante e lui va in pensione con quasi gli stessi soldi che guadagna lavorando. Ma lui, tra giudizio, lui non si staccherà mai dal mare, no? Per lui il mare, come per noi, sta in terra, Gavi, ovviamente me, perché tu, anche a te piace il mare, però lui è così, io conosco, ci conosciamo da bambini, quindi la sua passione era il mare e continuerà sempre, e lascialo fare. Roma così vaga, nessuno le dice cosa devi fare, allora devi uscire, oggi noi scimmo, domani noi scimmo, oggi siamo a bocca a verniciare, oggi siamo a bocca a contare la retta, Roma con vasi chi ci ribiate, capì? E domani, guarda, manco se non ci credo. Se tu le proponi a quella leggera, Francesco ti dici, anda a Duca, vi, che io già ando a Mari, io posso lo collettarmi a Mari. Ehi, poi ti sei peggio di me con la macchina, con il mezzo, no? Cioè, facevo quella di lavoro, ogni venerdì mi fermavo in un impianto dove c'era l'acqua, portavo l'aspirapolvere, tutta me la pulivo, me la facevo, capito, per iniziare poi da lunedì, ogni venerdì, facevo da lunedì a venerdì, poi il venerdì mi fermavo, mi lavavo la macchina, me la pulivo, invece l'altri sozzoni, fa rivelare i grabbi con i buchi dritto, tanto la macchina era la gioia, capito? E ho detto bene, la macchina rispecchia il padrone, ma quando uno non si rispecchia a se stesso, non si guarda, capito? La manzana non se ne beggia, girava la faccia e andava a travagliare, non c'era macchina. Quando uno non è pulito personalmente non pulisce neanche la macchina, non pulisce neanche la casa, vive come dei buchi. E purtroppo non è né il tuo caso né il mio caso, io sono molto, molto attaccato alla pulizia, anche se non è roba mia, però la tengo sempre efficiente e pulita, come se fosse la mia, Gabi. La realtà è quella, capito? Va bene, dai, mi allontano un attimino dalla radio, che mi sistemo il cane, se ti fai sentire ci sentiamo dopo, Gavi, ok? Mi ha fatto piacere ascoltarti, va bene? Gaffa, Gavi, magari entra qualcuno, così ci facciamo 2 chiacchiere, a dopo, ciao! CQ canale 10 e 10 sono 20. CQ CQ c'è nessuno? C'è nessuno?